24, i gialli della storia. È il 25 gennaio del 47 quando in una Miami spazzata da una pioggia incessante muore Al Capone. La sua morte non fa notizie, i giornali ne danno conto dopo le notizie sportive. Il funerale si svolge a Chicago con pochi parenti e amici. Una cerimonia modesta per quell'uomo che aveva l'America in pugno. E quello spietato criminale è stato il gangster più famoso della storia. Le sue attività vanno dalle scommesse clandestine al gioco d'azzardo, dal contrabbando di alcolici al racket. Per l'FBI è impossibile incastrarlo. Poi però arrivano Helios Ness e la squadra degli intoccabili. E oggi a Mix24 vogliamo raccontare questa storia, la storia di una lunga e sanguinosa caccia all'uomo nella Chicago degli anni 30, a partire dal processo ad Al Capone. È il 6 ottobre del 31. 6 ottobre 1931. Al Capone compare davanti al tribunale di Chicago. Il processo dura 7 giorni. Al termine, la giuria condanna il gangster più famoso d'America a 11 anni di prigione. Al Capone compare davanti alla corte per una semplice accusa di evasione fiscale. 75 milioni di dollari di entrate non dichiarate e su cui non sono state pagate le tasse. L'uomo che ha incastrato Al Capone è il famoso capo degli intoccabili. Il suo nome è Ness. Elliot Ness. Fin dall'inizio è un processo difficile e tormentato. Capone si professa innocente e accusa Ness di un complotto ai suoi danni. Il primo giorno di processo è finito. Il secondo sarà più difficile. E Capone lo sa. L'indomani, infatti, la corte ripercorre la singolare carriera del boss italo-americano, dagli oscuri inizi a New York fino ai trionfi di Chicago. Il giorno dopo, in apertura di udienza, l'accusa parte dal racconto della storia della sua famiglia. La difesa di Capone, nel rivolgersi alla corte, ricorda la vita esemplare del padre del boss italo-americano, Gabriele, un barbiere, cittadino americano dal 1906. Il giovane Alphonse è piuttosto precoce. A 14 anni viene espulso da scuola per aver aggredito un professore. Le bande giovanili prosperano sotto l'occhio attento degli agenti di reclutamento della mala locale. Al Capone entra a far parte della banda dei Five Pointers, di cui in breve diventa un leader. Nel secondo giorno dedicato alla storia della famiglia Capone, non viene fatta menzione di Vincenzo, fratello maggiore di Al. Qualche anno prima, una sera, non è più tornato a casa. Di lui si sa che aveva un sogno, raggiungere Buffalo Bill, il famoso cowboy che all'epoca lavorava in un circo. Terzo giorno del processo, la difesa di Capone passa all'attacco. Il loro cliente è solamente un capro espiatorio, mentre la vera colpa è del proibizionismo. Il pubblico è indignato. Anche Capone capisce che è un passo falso. Sotto la spinta di associazioni e movimenti di opinione, nel paese viene introdotto il 18° emendamento, che proibisce la produzione e la vendita di alcolici. Per i contrabbandieri, il proibizionismo è come una manna dal cielo. Al Capone, intanto, lavora come buttafuori in un locale di Coney Island. Ha 23 anni ed è sposato con una ragazza irlandese di una gang rivale. È già un killer senza scrupoli. Quando Johnny Torrio, suo padrino e mentore, gli propone di diventare suo socio a Chicago, Alphonse accetta immediatamente. Con le bische, i night, la corruzione della polizia e dei politici, Chicago diventa la prostituta d'America. Capone va fiero della sua sensazionale ascesa. I suoi legali lo presentano come un uomo onesto e umile. Quarto giorno del processo. Viene chiamato a deporre il capo degli intoccabili. Nome: Elliot Ness. Laureato in criminologia, Elliot Ness lavora all'interno di un'agenzia impotente e inefficiente. A lui viene affidato il compito di combattere la corruzione a Chicago. Alla corte, Elliot Ness spiega come Al Capone sia il principale responsabile di una simile degenerazione. Ness scorre uno a uno i nomi sul suo libro paga. Poliziotti, giudici, politici. Tutti generosamente corrotti per non interferire nei suoi affari. Gioco d'azzardo, alcol e prostituzione. Secondo Ness, Al Capone utilizza un terzo delle entrate che gli arrivano dal crimine per la corruzione, senza contare i doni in natura. Capone tiene tutta Chicago in pugno. Almeno fino al giorno in cui entra in scena Elliot Ness. È grazie a lui e al suo lavoro che Al Capone viene finalmente consegnato alla giustizia. È lui a smantellare la sua rete di distillerie clandestine e a porre fine al suo racket criminale, alle estorsioni, ai rapimenti. Ma Ness fa di più. Dopo aver elencate le varie attività criminali con cui Capone è diventato ricco e potente, Elliot Ness mette l'accento sulla crudeltà e la ferocia di quell'uomo senza scrupoli. Prendete ad esempio uno dei più sanguinosi episodi della carriera di Capone, il massacro di San Valentino. Spiega Elliot Ness. È la notte del 14 febbraio 1929. Gli uomini di Al Capone tendono una trappola alla gang rivale di Bugsy Moran. È un nuovo capitolo nella guerra tra bande per il controllo del territorio. Mentre gli uomini di Moran sono impegnati con un carico di alcol, arrivano i sicari di Al Capone, travestiti da poliziotti. Disarmate le loro vittime, le schierano contro un muro e le uccidono a sangue freddo. Capone si occupa personalmente di eliminare le prove del suo coinvolgimento. Chiunque gli si oppone viene punito senza la minima pietà. I quotidiani non hanno dubbi, è lui a governare la città. 3 settimane dopo, Capone viene dichiarato nemico pubblico numero uno dal presidente americano Herbert Hoover, appena arrivato alla Casa Bianca. Ma Elliot Ness ha deciso di incastrarlo. Al processo, il suo legale afferma: Capone è innocente, è il capro espiatorio di un potere che lo sta utilizzando per coprire i veri responsabili della crisi, i finanzieri di Wall Street e gli speculatori. Nel 1929 crolla la borsa di New York. L'America viene investita dalla Grande Depressione. L'America, soprattutto, ha fame. E Chicago è una delle città più colpite. Per assicurarsi il consenso della gente, fa distribuire gratuitamente il latte ai bambini delle famiglie colpite dalla crisi e apre mense gratuite per i senza tetto e i disoccupati. Diventa insomma un benefattore. Nel processo di Chicago suscitano clamore e scandalo le rivelazioni di Ness sul grado di corruzione all'interno dell'amministrazione pubblica. Queste le parole di Ness. Quando ho iniziato la mia indagine ero molto ingenuo. Mi indignavo di fronte ai miei capi senza sapere con chi avevo a che fare. In ogni indagine Capone e i suoi uomini venivano informati di ogni nostro movimento dalle loro spie. E così potevano smantellare le distillerie e noi investigatori non riuscivamo a trovare mai nulla. E senza nessuna prova non era possibile incriminarlo. Ma com'è nato il gruppo di Elliot Ness? È il procuratore distrettuale di Chicago, George Johnson, a rivolgersi a lui. Elliot Ness, all'epoca, è un agente di soli 28 anni, sveglio, idealista e coraggioso. Ness gli espone il suo piano per attaccare questo virus che infetta la città. Dal momento che Capone è protetto dalla corruzione e che il proibizionismo lo rende sempre più ricco, bisogna colpire le fonti del mercato nero, avvalendosi di una squadra di agenti dello stesso profilo di Ness, giovani, onesti e mai coinvolti nel malaffare. Ness ottiene carta bianca. Riferirà direttamente a Johnson e solo a lui. Ora Ness deve mettere insieme la sua squadra, un gruppo ristretto, così da evitare fughe di notizie, che ancora non ha un nome, ma che presto sarà conosciuto a tutti. Fase 1. Ness e la sua squadra intervengono sul commercio illegale. Gli spacci, dove ogni notte scorrono centinaia di litri di alcol, sono il fulcro della sua strategia. Ness vuole creare scompiglio e provocare una reazione, insomma, vedere cosa succede. Ness e i suoi uomini fanno irruzione in uno dei più famosi bar di Chicago. I locali vengono perquisiti e i clienti arrestati. Ma Ness ha commesso un errore. Oltre a non avere nessun mandato, non riesce a sequestrare nemmeno una goccia di alcol. Tutte le bottiglie, infatti, sono state distrutte. Elliot Ness, che nell'aprire lo scontro con Al Capone si è esposto in prima persona, ha perso insomma il primo set. Ness si rimette al lavoro. Per risalire alla fonte del contrabbando, dispone di pedinare le consegne dai bar alle distillerie clandestine. Quando gli ultimi clienti escono dai bar, infatti, i barili vuoti tornano alle distillerie per essere riempiti. Questa lettera era segnata sulle banconote da Su una mappa, Ness traccia una linea rossa che collega tutti i bar sotto sorveglianza. In questo modo può scoprire l'itinerario seguito dai furgoni di Capone. Secondo atto. Ness è di guardia davanti a uno dei bar sospetti. Sono circa le 2 di notte. I furgoni si mettono in moto. Seguirli è un gioco da ragazzi e gli uomini di Ness sono entusiasti. Stavolta ne sono sicuri. Non possono fallire. Sotto le cineprese degli operatori chiamati da Ness per documentare il suo trionfo, l'operazione si rivela, al contrario, un altro fiasco. Nei barili, infatti, non c'è una goccia di alcol. Ness diventa lo zimbello dei suoi avversari. D'ora in poi non può più permettersi di sbagliare. Capone non ha nessuna intenzione di farsi mettere in difficoltà da un oscuro funzionario della sua banda di tirapiedi. E per umiliare definitivamente Ness, si consegna nelle mani della polizia di Chicago e contro di lui non viene trovata nessuna prova. Anche i giornali sono dalla sua parte, ma intanto il processo continua. La corte intanto ha imparato a conoscere da vicino il cosiddetto metodo Capone. L'imputato è arrogante, altezzoso, saccente. Non fa una buona impressione sulla giuria. I suoi legali tentano di accreditarne un'immagine diversa, ma è una battaglia persa. Per tutti, Capone è l'incarnazione del male. È immensamente ricco. È uno sfrenato giocatore d'azzardo. Ha scelto di vivere in una sontuosa suite del migliore albergo della città, ma possiede molte proprietà in Florida. All'apice del suo successo criminale, Capone diventa anche un personaggio da film. Da Scarface a Piccolo Cesare, i produttori di Hollywood capiscono che Capone è l'eroe dell'America della Grande Depressione. I difensori di Capone, invece, sanno che proprio un'immagine simile può danneggiare il loro cliente. La loro tesi è semplice. A dispetto di quanto Elliot Ness vuole far credere, Capone non è un criminale. È un italo-americano che ama la famiglia, la madre, che accompagna la moglie e il figlio in chiesa e all'opera. Un uomo onesto e di successo, un benefattore che abbastanza comprensibilmente suscita l'invidia di quanti, come Ness, sono solo dei falliti. La sua squadra raddoppia gli sforzi. Il quartier generale lavora anche di notte. Ness sta solo aspettando il momento decisivo per sferrare il colpo finale. Se Capone dovesse sfuggirgli ancora, questa volta ne andrebbe della sua testa. Anche perché tra i vertici della polizia e il crimine organizzato i legami sono sempre più stretti e pericolosi. È il 13 giugno 1939. Grazie a una soffiata, Elliot Ness e i suoi uomini iniziano a pedinare un furgone pieno di barili diretto all'unità di lavaggio. Stavolta evitano ogni errore e, seguendo i furgoni con a bordo i barili lavati, alla fine giungono alla distilleria. Gli uomini di Ness sequestrano una quantità impressionante di bottiglie e di barili, che verranno poi distrutti. E arrestano i principali luogotenenti di Capone. Il tutto davanti a giornalisti e fotografi convocati per l'occasione. È la prima vittoria di Ness nella battaglia contro Al Capone, in tribunale e sui media. La sconfitta manda Capone su tutte le furie. Egli esige la testa di Ness. Infuriato, dà carta bianca ai suoi uomini. Stavolta però le forze del male trovano in Elliot Ness una resistenza mai vista prima a Chicago. Capone, infatti, è solito ricorrere a 2 soli metodi. La violenza e l'intimidazione, nella speranza di spaventare Ness e i suoi uomini, oppure la corruzione. Offre $2,000 a settimana ai membri della squadra che accettino di collaborare con la sua organizzazione. Ma la sua proposta cade nel vuoto. La stampa e i lettori sono letteralmente folgorati dal piccolo gruppo di agenti che conquista tutte le prime pagine. Nascono così gli intoccabili. Ma Capone è ben lungi dall'arrendersi. Passa anzi al contrattacco. Grazie a dei microfoni piazzati nel suo quartier generale, Capone riesce ad anticipare tutte le mosse di Elliot Ness. Poi però Ness entra in possesso di una lista con i nomi degli agenti corrotti di Chicago. È un documento che potrebbe affossare l'intero corpo della polizia. Elliot Ness ora è un uomo solo e in pericolo. Poi, il 13 marzo 1932, Frank Basile, autista degli Intoccabili, scompare nel nulla. Nessuno sa che fine abbia fatto, almeno finché il suo corpo viene ritrovato mutilato, con il cranio frantumato e la lingua strappata, praticamente irriconoscibile. È l'ultimo avvertimento per Ness. Ma la violenza di Capone non fa che accrescere la determinazione di Ness e dei suoi uomini. Nel giro di poche settimane il contrabbando di alcol viene debellato. Chicago è finalmente una città pulita. Ness decide che il campo di battaglia su cui sferrare il colpo mortale a Capone saranno i quotidiani e i cinegiornali. Mette insieme tutte le vetture sequestrate negli anni alla mala e, in risposta ai colpi subiti, convoca la stampa perché assista al suo trionfo. Ness è alla testa della sfilata che si snoda per le strade di Chicago e passa lentamente di fronte al quartier generale del boss. Capone è furibondo. Stavolta è Ness a ottenere la vittoria e per giunta di fronte a fotografi e cineoperatori. Ferito nell'orgoglio, Capone continua tuttavia a trattare con scherno gli Intoccabili. Sa che non hanno ancora nessuna prova contro di lui. Poi però il colpo di scena. Elliot Ness e gli Intoccabili arrestano il suo contabile. Il grande, il temuto, il super boss Al Capone alla fine viene arrestato per frode fiscale. E quello che appare in tribunale, in mezzo a una folla di curiosi e ai flash di centinaia di fotografi, è un uomo braccato, sperduto e abbandonato dai suoi complici. È il 12 ottobre 1931. Il processo si avvia alla sua conclusione. Gli avvocati di Al Capone giocano il tutto per tutto. Lo intuiscono anche i giudici. È l'ultima carta, l'ultima speranza. Per il giorno seguente viene convocato un testimone a sorpresa. Un uomo di legge, la cui parola da sola potrebbe ribaltare l'esito del processo. È un uomo di 40 anni e si chiama Richard Hart. Amante della pace, ha lavorato alla riconciliazione con gli indiani. Il suo motto è anche il suo codice di vita. La legge è legge. Eppure, proprio una sua dichiarazione potrebbe significare la salvezza del boss italo-americano. Richard Hart, infatti, è solo uno pseudonimo. Il suo vero nome è Vincenzo Capone. È il fratello di Al. Ma Hart rifiuta di venire a testimoniare. Ness sta per vincere il suo lungo duello con Capone. Mancano poche ore al verdetto. Verso mezzanotte, il boss attraversa per l'ultima volta la città da uomo libero. I bar dei quartieri degradati, i nightclub, i bordelli. Con le sue donne allo spaccone di sempre, si dice convinto che il giorno seguente verrà assolto. Ma è lui stesso il primo a non crederci più. Capone viene condannato a 13 anni di prigione e la sua pena sarà scontata ad Atlanta, in Georgia. Sarà lo stesso Ness a scortare Capone fino al treno che lo porterà all'istituto di pena in Georgia. Per altre 24 ore tutti gli Stati Uniti non pensano ad altro che ad Al Capone. Le radio locali tengono aggiornati gli ascoltatori sul tragitto percorso. E lungo i binari della ferrovia, migliaia di curiosi si assembrano per dare un'occhiata furtiva al prigioniero numero 40.886. L'eroe diventato il nemico pubblico numero uno. Nel 1933, Roosevelt inizia il suo primo mandato alla Casa Bianca. E il 5 dicembre dello stesso anno viene promulgata l'attesa legge che sancisce l'abolizione del proibizionismo. Senza il contrabbando, l'agente Elliot Ness resta così disoccupato. L'agente Ness tenta di entrare nell'FBI, ma la sua notorietà è un problema, soprattutto per il capo dell'agenzia, Edgar Hoover, che non vuole ombra sulla sua strada. Per Ness comincia un'inarrestabile parabola discendente. Inizia a bere, lascia la moglie, colleziona fallimenti. Quando decide di scrivere le sue memorie, non trova nessun giornalista disposto a dargli una mano. Morirà nel 1957, prima dell'uscita del libro che sarà un trionfo e consacrerà la sua leggenda. Intanto, nel 1934, nella baia di San Francisco, l'amministrazione penitenziaria posa la prima pietra di una prigione da cui, si dice, nessuno potrà evadere. Le celle sono Alcatraz. Il carcere viene aperto dal giudice Johnson, lo stesso che ha condannato Al Capone. Lei ha effettuato l'ispezione. Le misure di sicurezza sono state organizzate in base alle sue disposizioni. Il corpo di sorveglianza attende di prendere le posizioni assegnate. Alcatraz è pronta. Ed è proprio Capone uno dei primi detenuti ad entrarvi, quasi a simboleggiare la vittoria dell'America sui suoi vecchi fantasmi. È il 19 agosto 1934. Il prigioniero numero 85 ha ancora 9 anni di carcere davanti a sé. È un uomo rovinato. I suoi averi sono stati confiscati dal governo e il suo potere non è che un lontano ricordo. Gli altri detenuti sanno che ormai non è più lui il boss. D'ora in avanti, perfino a mensa, è Machine Gun Kelly a comandare. Lui sì che è un vero duro. Al Capone, invece, è malato. Gli è stata diagnosticata la sifilide. È il 1938. Ad Al Capone viene concessa la visita della moglie. Mai riconosce a malapena il marito, invecchiato e ingrassato. In gran segreto ha chiesto di essere trasferito. Alcatraz è diventata troppo pericolosa per lui, così malato, vittima di una rivalità tra bande in cui tutti si contendono l'onore di ammazzarlo. Uscito di prigione un anno dopo, Capone soffre di amnesia. L'America è in guerra dal 1941. L'ex boss trascorre una vita tranquilla a Miami. Il 25 gennaio 1947, in un giorno di temporale, così insolito in Florida, Capone esala il suo ultimo respiro. L'uomo che una volta aveva l'America in pugno muore, dimenticato da tutti. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonello Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare in podcast sul sito www.radio24.it.